Il punto di Stefano Folli. C'è qualcosa di singolare e contraddittorio nell'idea di usare i voti del Partito Democratico alla Camera provenienti da un premio di maggioranza contestato dalla Corte Costituzionale per far approvare una nuova legge maggioritaria. Ma è meglio non addentrarsi troppo in certi labirinti, siamo pratici. Quello che conta è vedere se il neoleader Renzi sarà capace di gestire la materia elettorale di per sé incandescente senza frantumare la coalizione che regge il governo Letta. Che ci sia nervosismo in giro è inevitabile, ma la partita è lunga. In fondo si tratta di far marciare insieme la riforma della legge elettorale, da tutti auspicata, e le riforme costituzionali, abolizione del Senato, come oggi, riduzione dei parlamentari, eccetera. Renzi ne ha bisogno per presentarsi all'elettorato quando sarà con un bilancio convincente. Ma c'è un'altra esigenza più profonda. Un sistema elettorale maggioritario richiede un impianto costituzionale adeguato, visto che l'attuale fu concepito a suo tempo per un sistema proporzionale. Sarebbe logico, se non fosse che la logica è spesso estranea alla nostra politica.